questo viaggio, quello che ci porta fino al sole, non lascia spazio a indecisione, si può solo andare. E non mi fermerò. Con spalle solide formate da ogni mia emozione, con occhi lucidi che cercano soltanto amore. Io non rinuncerò. Vicino a te tutto è possibile. Irraggiungibile. Ridisegnare la tua stella ed ogni suo colore, determinare l'esistenza di un viaggio insieme. Io ci riuscirò. E poi vedere.